8 Hertz presenta A Chiacchiera con la Cattiva Ragazza. Eccoci alla nuova puntata su Radio Wombat o Wombat Radio di 8 Hertz. A Chiacchiera con la Cattiva Ragazza perché stasera abbiamo un ospite in regia, ovvero Bad Girl. Andiamo subito a sentire un pezzo. Tanto se vuoi salutare, non lo so, se vuoi dire qualcosa. Sì, un attimo, rapidissimo, un ciao. Poi cercherò di parlare poco e lasciare lo spazio a lui. Va bene, ascoltiamo il primo pezzo che si chiama M.M, poi ci spiegherà il perché e poi presentiamo questo grande artista. Thank you. Questo è Bad Girl, la cattiva ragazza, al quale dedichiamo proprio il programma come puntata speciale. Noi praticamente facciamo solo puntate speciali. Perché questa settimana parliamo di lui? Perché in occasione di un concerto importante per la sua carriera, che ci sarà venerdì, questo venerdì, il Centro per l'Arte Contemporanea Pecci, Museo Pecci a Prato, dove si esibirà, in quanto c'è una mostra che è un po' simile con quello che fa lui musicalmente, che ora ci spiegherà. Leonardo. È partita la domanda? Sì. Era questo? Buonasera di nuovo. Sì, no, non so quanto è inerente il mio lavoro con quello che sta accadendo al Pecci. L'invito è stato molto gradito. E, comunque sì, la situazione si chiama La fine del mondo. Casualmente il mio disco Cosmi è una roba che può indicativamente riguardare una situazione extraterrena e qualcosa del genere, quindi un pochetto ci sta e si inserisce abbastanza bene nel contesto. Poi lo spazio è bellissimo, comunque ci sarà una stanza meravigliosa con totalmente pareti bianche, quindi sì, luci spente, proiezioni, è molto affine a quello che propongo solitamente dal vivo, quindi ci sta assolutamente bene. Ok, vuoi dare i credits dell'album che è uscito l'anno scorso, se non sbaglio? Neanche, sei mesi fa. L'anno scorso? No, ora. Lì, pochissimi giorni fa. No, a giugno. Ah, l'abbiamo giugno. Presentato l'anno scorso, perché l'estate divide l'anno, diciamo. L'abbiamo presentato a giugno alle Cave di Isola, per l'occasione del Festival Terre d'Aria, il 17 mi sembra la data della release ufficiale del disco. Sì. E quali credi tuoi? Non lo so, esce per tre etichette incatenate. Che sono Diodrone, Uto Conspiracy e Totens One Records. Esatto. Il mastering l'ha fatto? Insomma, tutte queste cose qui, dai. Erano questi, credi. Sì. L'ha fatta Alessandro Maffei, mastering, è bravo, il nostro bravo, amico, collaboratore, come si dice, tutte queste cose qua, insomma, che fa parte di una situazione che ci appartiene, insomma. Ok. Collaboratore. Ritorniamo a parlare del disco più tardi, di Cosmi più tardi, poi sentiremo anche altre cose sue, ma insomma le sveliamo via via. Metterò un pezzo che secondo me ha influenzato molto i lavori di Bad Girl, che è un pezzo di Akamas Oz, con il quale lui tra l'altro ci ha avuto a che fare, ma ce lo dirà dopo il pezzo, che è un solo project, un po' dark ambient, un po' tribale, un po' industrial. Infatti è uscito almeno l'album, che il pezzo dell'album dal quale è tratto, è uscito per la Hands Production, che è una famosa etichetta industrial, Arch Noise e derivati. Il pezzo si chiama Leviathan, è uscito, è tratto da 10 Year Bat Vibes del 2003, che credo sia uno dei dischi più riusciti suoi. È un doppio, il secondo CD ha un sacco di remix appunto progetti industrial e arch e compagnia bella di quell'etichetta in quel momento storico. E ora ce lo sentiamo, a Akamas Oz, Leviathan. Drug addiction, alcoholism, sadism, bestiality, mutilation, murder, vampirism, necrophilia, cannibalism, not to mention the gamut of sexual goodies. Which shall I go on? among us out of hell. Hateful enemy of God and all Christian people, the devil. We are all aware of the rumor that spirit come among us out of hell. Hateful enemy of God and all Christian people, the devil. Hateful enemy of God and all Christian people, the devil. I hope you do not mean that we go to Satan here. In my hand, or I cannot keep you from the rope. You will give me your honest confession in my hand, or I cannot keep you from the rope. Stasera le sonorità saranno queste, tutta un po' sull'elettronica, un certo tipo di elettronica e di diramazioni varie. Come la potremmo chiamare questo pezzo, secondo te? Agli arpeggiatori un po' EBM, è anche un po' EDM, e tu cosa fai? Bella domanda questa, assolutamente. Ha un tiro fortissimo, sì, un po' di EBM ci sta, ci sono gli arpeggiatori in questo modo abbastanza, come si dice, ossessivi e calzanti, la batteria è abbastanza regolare, però con i suoni belli grassi. Concetti esoterici. No, abbastanza, lui ce li ha molto, quindi sì, quello, elettronica, indicativamente. No, è completamente impreparato questo ragazzo, non si ricorda niente. No, la definizione dei generi è sempre stata una cosa che mi spazia, ma è incredibile, poi lo dico per pararmi un attimo così. Insomma, cioè avevo messo sto pezzo perché avevo detto prima di mandarlo che in qualche modo hai avuto a che fare con il tipo, con lui che si chiama Herman. Il cognome me lo risparmio perché è un attimo sì. Impronunciabile belga per me. Come mai ci ha avuto a che fare, se ce lo vuoi ricordare? Prima te l'ho ricordato mentre passava il pezzo, quindi ora te lo ricordo. Ora me lo dici. Allora, no, in realtà lui come musicista e come progetto di Akamasots l'ho conosciuto grazie a Andrea, ragazzo con cui ho condiviso tantissime esperienze musicali e tantissimi periodi d'amicizia e varie. Lo salutiamo, ma tanto salutiamo. Non ci sarà ascoltando mai. Mai. Magari in podcast un giorno. Magari, comunque lo salutiamo. e niente, in quel periodo suonavo con Ende, un progetto che si chiamava Downward Desire Search, con noi c'era anche Davide Valecchi, che saluto e mando un bacio. Che è anche Al. Al. E era venuta fuori l'idea di... concomitanza con l'uscita dell'album, che purtroppo non è mai uscito, ho dentro il cassetto, ma forse un giorno lo faremo uscire, che è bellissimo, grazie, di accompagnarlo con dei remix. Quindi avevamo contattato un po' di personaggi che avevano avuto o hanno una produzione un po' interessante, tra questi c'era appunto anche Herman. Io ho mandato una mail così a un indirizzo trovato in maniera molto informale, però senza avere nessun tipo di contatto con lui precedente. Lui è stato carinissimo, era disposto e stava cominciando a lavorare a una delle canzoni. Purtroppo il progetto si è congelato, fermato, brutalmente bloccato, e quindi anche questa canzone non è mai venuta fuori. C'è una collaborazione con Zev, di cui è stato fatto un remix di un nostro brano, che era Vio. Ci stavano lavorando altri personaggi, tra cui Luca Torasso di Sandblasting, eccetera. Okay. Bene, quindi agganciamo, ci agganciamo musicalmente mandando appunto un pezzo dei Downward Desire Search che si chiama Final Audit, e in questo pezzo come featuring ci canta il samaritano Naresh Chand. Lo andiamo ad ascoltare. Bene. Che ci piace molto. Naresh Chand ci piace molto. No, il pezzo. Grazie. Lui no. questo pezzo è perfetto, si diceva prima, fa sempre venire un po' di magone quando lo ascolto, per vari motivi, insomma, anche comuni. Sì. Condivido il magone. Il magone, poi ne ascolteremo un altro di pezzi dei Downward Design Research, che avevano scelto pure un nome difficilissimo. Sì, l'hanno sempre sbagliato, locandine per i live, sempre, c'era scritto sempre qualcos'altro. Bene. Sì, è difficile. Poi mi ricordo anche per scaricarsi, se volevi trovare qualcosa online, che assolutamente non trovavi nulla, scrivevi Downward Design Research, cioè veniva di tutto tranne che ovviamente una mezza notizia sul gruppo. Perché, te, no? Immaginate cosa viene ora con Bad Girl quando si cerca cose, però quella, sì. un'altra cosa. Cioè, quindi lo fai apposta. Sì, assolutamente. Ok, tra i vari riferimenti che sento in Bad Girl, ci sento anche qualcosa dei Coil, ovviamente, visto che anche te sei un po' fanatico. Assolutamente, sì. Infatti il pezzo che andiamo a ascoltare è un pezzo... Cioè, i Coil hanno fatto tantissimi generi, tantissime cose, per cui è difficile anche categorizzarli con qualche parola che descriva la loro musica che non sia fondamentalmente alchemica. Questo pezzo si chiama, ha un titolo lunghissimo, si chiama Red Birds Will Fly Out of the East and Destroy Paris in a Night, del 1999, tratto da Music to Play in the Dark, volume 1. Non so, insomma, dopo quello che è successo a Parigi era un po' anticipatore. Casualmente. E allora io ho sbagliato perché dovevo metterne un altro, ma va bene, quindi lo andiamo a ascoltare. Secondo me sì, ci sono dei rimandi anche al tuo lavoro. Vuoi dire qualcosa su questa affermazione oppure sono io che sono pazzo? No, sì, pazzo lo sei comunque, indipendentemente da quello che hai detto, però no, c'è sicuramente dei rimandi, ci sono, poi come hai detto tu, Coil hanno un lavoro veramente vastissimo, hanno fatto tanto di diversità nel loro percorso. In Music to Play in the Dark c'è qualcosa che può richiamare un pochino a quello che ho fatto, l'ho ascoltato molto, è un album che apprezzo tantissimo, e sono delle atmosfere che in qualche modo mi sono scivolate nel fare le mie robe, in qualche modo ci sono entrate le atmosfere, le dilatazioni, le sospensioni che ci sono. Che poi questo pezzo, tra l'altro, è anche un po' vicino alla parte elettronica del crowd rock originario. Sì. Non so come mai è venuto così. Io sapevo dalle interviste che loro non ascoltavano crowd rock, per cui forse gli è venuto a caso. Ma a caso. Quando viene tutto a caso, vuol dire che non è un caso. Assolutamente, vabbè, hai visto. Le casualità erano partite già con Robin Gristol, quando hanno cominciato a lavorare, a mettere insieme le forme di canzoni nei loro lavori, quindi sì, infatti. Aiuto. Allora, il pezzo è un po' aiuto anche questo, è lunghissimo, dura 12 minuti e mezzo, lo mettiamo tutto. E, certo, che sia mai tagliato. Se c'è qualcuno che ascolta, rilassati. O fatti il tuo viaggio, insomma. Thank you. State ascoltando un brano The Coil, lunghissimo, dal titolo Red Birds Will Fly Out on the East and Destroy Paris in a Night, tratto da Music to Play in the Dark, volume 1. C'è anche il volume 2, sono altrettanti bellissimi e consigliato l'ascolto completamente al buio, ovviamente. Metterò un pezzo che secondo me è un'altra influenza che ha avuto il signorino, la signorina Bergerle, un gruppo famoso che è un duo elettronico inglese che si chiamano Autechre. Sono molto conosciuti, hanno fatto una miriade di dischi, le ultime cose sono tipo 5 CD live, 5 CD come nuovo disco. E fanno un po' di tutto nell'ambito dell'IDM, che sarebbe Intelligence Dance Music, quindi si presuppone che sia fatta con criterio e sia da ascoltare anche un po' per chi vuole muoversi, riesce a trovare una forma del corpo che segua le onde musicali e i ritmi vari. È tratta da un disco che si chiama Amber, che è un disco ormai un po' passato, del 1994, che è uscito per la Warp. Quasi tutte le loro produzioni sono uscite per la Warp, che è un'etichetta non di prestigio di più. Si chiama Nine, provate a sentire questo pezzo un po' come proseguimento di tutta la puntata e delle cose che ha fatto Bad Girl, sia come solista che con i Downward Design Research. Eccoci qua, Leo, secondo te ha a che fare con la tua musica Autecre o no? Ha a che fare, sì, ha a che fare molto anche lui. È un progetto che conosco un pochino meno, l'ho scoperto già da pochi anni, quindi ci devo entrare ancora dentro, lo devo ascoltare. Fa molto piacere trovare persone che hanno fatto dei lavori importanti e con una produzione grande dietro, dove trovo molte cose che mi hanno ispirato senza conoscerle quasi. Cioè ci sono delle basi di qualcosa da cui ho tirato fuori e poi sento che qualcuno l'ha fatto in maniera differente o personale. Come? Personale. Sì, è interessante. È come il fatto che mi affiancano molto a... molto spesso ai lavori di Carpenter, che io conosco pochissimo, però molto spesso mi viene detta questa cosa, è curioso questo aspetto, che comunque vuol dire che hai dentro un percorso che in maniera spontanea viene fuori e è similare a una persona e non sai neanche il perché. Esatto, è curiosa questa cosa, vuol dire che c'è un qualcosa... che unisce i musicisti in qualche modo. I musicanti. Ok, tanto siamo a metà inoltrata della trasmissione, vi ricordo un po' le mail e quant'altro di Radio Wombat o Wombat Radio. Allora, c'è un Twitter che si chiama twitter.com/radiowombatfi, ovviamente Wombat è sempre con la W. C'è un Facebook, Radio Wombat Firenze, il sito, se state ascoltando si presume che lo sapete, e poi c'è un indirizzo di posta che si chiama postawombat@insiberia.net. Ci farebbe piacere che voi ci scriveste per critiche, miglioramenti o anche per dirci che è una gran figata, non lo so, insomma. Quello meglio. Sarebbe meglio, però insomma... o per qualche sbaglio che facciamo, qualsiasi cosa, insomma, apprezzeremmo molto. Facciamo sentire un altro pezzo di Bad Girl, sempre tratto dal suo primo vero disco, a parte qualche CDR che ha fatto, cassettine. Si chiama Oil, è un pezzo, tanti dicono che è la hit, forse è il pezzo più pop dell'album. Bella, per un pezzo pop, sì, cioè, tanto per dire. Intanto però vogliamo ricordare che appunto suonerà questo venerdì al Centro per l'Arte Contemporanea al Pecci, coadiuvato anche da Andrea Savelli, che starà dietro ai visual. Sai qualcosa di questi visual? No, non lo conosco, mi ha mandato un messaggio dicendo che voleva partecipare. È un carissimo amico che ho un po' perso di vista ultimamente perché è ritrasferito da Firenze a Follonica. Con lui abbiamo lavorato tanto nel periodo dei Downward Design Research. L'ho conosciuto quando il progetto era già avviato. Lui è un grafico che si cimentava con esperienze di visual. I suoi lavori sono molto belli, io apprezzo tantissimo il suo gusto. Abbiamo fatto tanti live insieme dove lui ci accompagnava per questo e poi un lungo periodo di pausa ci siamo rincontrati e è venuta fuori l'idea di collaborare per questo evento, visto che siamo all'interno di un museo e non è la solita situazione del live di locale, ci stava bene poter approfondire un po' la parte di visual. E quindi sapevo di multiproiezioni, almeno un paio. Sì. La parola multi fa figo, ci saranno due proiettori, uno da una parte e uno dall'altra. Sì, comunque una cosa del genere, visto appunto come dicevo prima che la stanza è totalmente bianca e possiamo approfittare di questo, faremo questo doppio lavoro con una proiezione destra a sinistra che fa proprio una divisione di mondi, uno da una parte e uno dall'altra. Bene, ascoltiamo Oil, che parte che pare un pezzo di Coil. Non fa la rima, ma quasi. Intanto la mettiamo. Questo è Bad Girl. Oil, tratta da Cosmi. Thank you. pista che avete ascoltato è Oil di Bad Girl, tratta da Cosmi. Adesso faccio il domandone a Bad Girl, che è anche un fonico di prima qualità. Grazie. La sua musica, non l'abbiamo detto finora, ma è fondamentale dirlo, è fatta tutta con synth più o meno analogici, cioè il computer viene usato solo per mixare e basta, equalizzare, insomma, e registrare. Cose, registrare. Quali synth usi, quanti ne usi, che attitudine hai con i synth, quale rapporto hai con questi oggetti? Beh, è il domandone, perché tutte le volte si fa tipo l'elenco delle robe che vado a comprare, no? Ci scambiamo messaggi, ho preso questo. È un rapporto morboso, come ho comunque con tutti gli apparecchietti relativi all'audio, anche da un punto di vista lavorativo. Mi piace comprarmi le cose belline, microfoni, tutto quanto. Sintetizzatori è forse una mania, non lo so. Cioè, vedo le cose e mi prende la testa, ne ho tantissimi e uso un decimo delle potenzialità di ciascuno, però con ognuno ho trovato quella piccola cosa e quindi è a posto così, e ne vado a cercare un altro per aggiungere qualche sonorità, qualche cosa, ma giusto perché sento che quella cosa può funzionare. Poi potrebbe fare tanto altro, però in quel momento va bene così. E quindi aumento questa catena di cose, vado a giro con 50.000 valigie, pesi, cose faticose da portare, però che poi danno i risultati così. Danno grandi soddisfazioni. Danno grandi soddisfazioni, assolutamente. No, che le puoi avere anche assolutamente con i plugin. Però sono scomodi da portare nell'ottica dei live vari. Che... Tantissimo, sì, sì. In previsione anche di fare cose un pochino più lunga distanza, portarsi dietro tanto materiale è impegnativo. Infatti, quali date hai in futuro? Ma progetti di date, insomma. La prossima carinissima dove sono stato invitato è il Degender il 3 dicembre, che ringrazio. Il 3 Degender? Il 3 dicembre, dovrebbe essere il 3. Il 3 Degender, era una battuta. Ah, non l'avevo capita, scusa. Sento male nelle cuffie. Ringrazio Alos per l'invito, è un festival molto interessante. È il 3 dicembre questo, appunto. Dove? A Rimini. Non mi ricordo la location. Vabbè. Dilla tu, te la ricordi? No, no, non la ricordo. Ok. E poi abbiamo qualche altra cosa però da confermare, e sicuramente quella che più aspetto con soddisfazione e finalmente un traguardo importante è una data a Berlino, a cui se ne aggiungeranno spero altre, comunque sarà a febbraio. Sono stato contattato da una persona che organizza dei festival e suonerò lì il 4 febbraio, questo sarà non un traguardo, però un qualcosa di importante per farmi questo viaggio e andare su. Bene, bene, bene, bene. Molto bene. Bene, sì. Molto bene. Parlando di synth, quindi ti vorrei far ascoltare, così da amico, un pezzo di Adrian Jung. Qui si parla di black electro, black elettronica. Il disco è l'ultimo che ha fatto, quindi nel 2016, si chiama The Electronic Void, tra parentesi Black Noise. È fatto tutto con synth analogici, come potrai sentire durante la messa in onda del pezzo. Okay. Sentilo e sentitelo, secondo me è molto... Come un termine fighetto, cool. Si chiama Patterns. Mm. geometry, patterns develop while dissecting a circle, the secret to the universe. A circle has 360 degrees, 3 plus 6 plus 0 equals 9. Divided in half, 180 degrees, 1 plus 8 plus 0 equals 9. The equation works till its ultimate conclusion. 369 is everything and nothing at the same time. Love does not flow in an unbroken line. It circles back infinitely. E siete su 8 Hz, le 8 Hz sarebbero le frequenze che interagiscono nel sonno, in una fase precisa del sonno in cui i viaggi diventano più seri. Dopo Adrian Hughes, che come potete notare più o meno in questa puntata le tracce sonore non sono tante, la batteria più o meno ha lo stesso beat dall'inizio alla fine con pochissime variazioni. diciamo, una linea di basso, una bass line, una linea melodica, un cantato ogni tanto se c'è, ma spesso non c'è. Parlando appunto di un modo di fare elettronico un po' minimale, ascoltiamo un maestro della musica elettronica minimale, volendo. È Mika Vainio, che è uno dei due Panasonic. Prima si chiamavano Panasonic, poi la Panasonic li ha denunciati. Allora, il primo disco dei Panasonic dopo la denuncia del nome si chiama Panasonic, ma si chiama A, per cui messa in mezzo a Pan e Sonic, per cui È vero, hanno proprio questa ribadito, grafica interessante della hanno ribadito un divisione. po' il concetto. Questo pezzo è tratto da Kino, un album del 2013 uscito per la Blast Fest Petite, si chiama Cargo, è super minimale, super oscuro e nella puntata ci sta benissimo. cavallo caldo tratto da Tino, un altro punto di attenzione. Adesso mettiamo un altro pezzo di Downward Design Research che si chiama Gridlock, un pezzo che a me è sempre piaciuto, fondamentalmente l'ho sempre sentito negli anni passati dal vivo, volevo anche ricordare che in questo tipo di musica conta parecchio anche un po' anzi è fondamentale la qualità del suono. Per cui già i pezzi sono compressi qui alla radio, e chi ascolta magari non ha uno stereo decente, per cui tante cose purtroppo si vengono a perdere, e invece sentire tutte le frequenze in questo genere vasto musicale è importante proprio per godersela appieno. Ok, partiamo con Gridlock, che è un pezzo molto melodico, era il progetto precedente di Bad Girl. Thank you. PR con Gridlock. L'album non è mai stato, non è mai uscito, ma è stato registrato e ce l'ha nel cassetto questo pazzo bad girl, o questa pazza bad girl. Pensavo che ci sono persone come i Panasonic che sono in due e usano veramente forse 4 synth per fare il loro live set, e ci sono persone come Bad Girl che già ne usa tantissimi. E mi ricordo che vedere i Downward Design Research dal vivo era tipo una cosa assurda, erano tavoli e tavoli di synth, che anche Al ne usava tanti, Andy forse un pochino meno, che stava dietro più alle ritmiche, e mi ricordo che si prendevano in giro dicendo: ma questo non è un concerto, è un expo di synth. Sì, era abbastanza assurda anche la richiesta tutte le volte, tipo: cosa avete bisogno? Ma no, poche cose, 4 monitor, però sì, tavoli 4 metri e mezzo, suonavamo sì, sì, bene solo nei teatri praticamente. Ma insomma, perché si chiama Gridlock questo pezzo che abbiamo ascoltato? Si chiama Gridlock per diciamo un omaggio, un ringraziamento a una band che era abbastanza affine a quello che si faceva. Mi stanno porgendo un foglio che ho scritto delle cose. Praticamente ho anche questo gruppo l'ho conosciuto durante il percorso con i DDR. Me li ha presentati Andrea, un gruppo che facevano un'elettronica... DDR sarebbe l'abbreviazione di Downward Design Research. Era, sì, per non stare a dire tutto questo nome impronunciabile. Un gruppo fa un'elettronica molto interessante, hanno una produzione abbastanza vasta, ma non sono molto conosciuti. Principalmente queste cose derivano da un album che è Formless, che ci ha un pochetto coinvolto e ispirato nella nostra produzione. Ricordo che ascoltavamo spesso questa canzone prima di fare le prove, che era Pallid. Mi raccontavi prima questa storia su Mike Wells, che è uno dei due membri dei due Mike, progetto, sì. dei due Mike. Riguardo a cosa? Che ha uno studio di registrazione molto molto molto figo. Lui è una persona che si è potuto permettere di comprare delle attrezzature molto molto belle, ha uno studio fighissimo negli Stati Uniti, e non conosco bene le produzioni che escono da lì, però le apparecchiature sono bellissime. Ogni tanto visito il sito giusto per avere soddisfazione di guardare gli armadi con i rack dei processori, dei preamplificatori e delle robe che usa, e lui è sempre molto sorridente a sedere sulla seggiolina dietro a questa console pazzesca. Un giorno mi piacerebbe anche provare a mandargli del materiale per vedere che cosa esce fuori da un mastering, ma sappi tu, se non mi costa un'infinità, vediamo. Ok, quindi loro sono di San Francisco, e a San Francisco non ci sono solo i fricchettoni per strada, ma ci sono anche personaggi che fanno questa musica un po' fredda, un po'... spezzettata, strana, sì. Spezzettata, e il pezzo è Pallid, tratto da Formless. Lui è di origine di su, di Helsinki. È di su, è di Helsinki. Si sente un po'... Questa atmosfera. Lo mettiamo subitissimo, perché la puntata a sto giro è lunga, anche se siamo quasi in chiusura, quindi siete alla fine. Per chi è interessato e la sta seguendo dall'inizio, gli devo fare i complimenti. Appunto, scriveteci su postawombat@insiberia.net. essendo una puntata dedicata a sonorità sintetiche, synth analogici, synth digitali, qualsiasi cosa, andiamo anche su vi faccio sentire anche dei pezzi forse un pochino più ironici, però altrettanto geniali, infatti con l'utilizzo dei Game Boy, i videogiochini, quelli della Nintendo, proprio i primi Game Boy, quelli in bianco e nero, il Game Boy Color. C'è un tipo italiano che si chiama Rotten Beat, che verrà presto a suonare a Firenze, che fa interi live con 2 o 3 Game Boy o Nintendo DS, non mi ricordo di preciso, però un paio di Game Boy ce l'assicuri, se non 3. Quali strumenti? E per far capire che anche con quei giocattoli, con i videogiochi, puoi comporre proprio. Questo pezzo si chiama è dei Cheeseburgers, no, ho capito poco, è editato da Rotten Beat, si chiama Chewy Chocolate Cookies, ascoltiamolo immediatamente, è una genialata. Rotten Beat fa queste cose con i Game Boy, praticamente lo spieghiamo un po', perché anche Bad Girl mi stava chiedendo ma come fa. Praticamente sono delle cartucce di ditte specializzate che compatibili proprio come forma e contenuto con i Game Boy. Dentro questo programma, mi ricordo c'era il Nano Loop, ma non so se era per il Game Boy o per qualcos'altro, diventa un vero e proprio synth sequencer, per cui tu hai tutte le impostazioni per regolare i suoni, gli effetti, le tracce e mandarle. Ora, mi ha portato il compare un pezzo di Ben Frost, e mi sto chiedendo perché me l'ha portato, e quindi glielo domando: perché me l'hai portato? Beh, perché me l'hai fatti conoscere tu. Mi hai dato tu il CD. È uno solo. È so. Uno, mi hai dato tu il CD suo. Anche questo rientra in quelle cose curiose che di persone che conosco dopo di quando ho fatto i miei brani, le mie composizioni, e ci ritrovo le cose che ho fatto. Cioè, mi ricordo, mi hai detto: ah, ascoltalo, lui è figo. Mi hai dato i CD, l'ho ascoltato, ho detto: porca miseria, ha fatto esattamente quello che ho fatto tipo la settimana scorsa. Interessante sempre questa cosa. Lui è molto bello, ha delle atmosfere molto, molto pesanti, però al tempo stesso molto leggere. Non so se è islandese di origine o abita in Islanda. Io lo vidi dal vivo in un teatro, al Politeama di Pisa, e aveva non so quanti Ampeg dietro da basso, la chitarra filtrata sul computer e qualcos'altro di indecifrabile. È finito che ha suonato scalzo, via via si spogliava. E so che i dischi, almeno un disco che non so se è questo, ma quello successivo, l'ha fatto con i fondi della nazionali islandesi per promuovere i gruppi di lì, siccome ce ne sono pochissimi, mi sa che Björk non ci avvisa più da un po', o insomma altri canali ben più remunerativi, lui se l'è giocata proprio guadagnandosi i soldi per produrre il disco, stamparlo e forse anche girare un po' tramite lo Stato. C'è anche qui da noi, mi sembra, no? Sì, no, mi ricordo che iniziò così anche, come si chiama il regista, Cronenberg, che è canadese, e i primi film li ha fatti sfruttando questo bando per cui davano dei soldi, lo Stato canadese dava dei soldi ai registi emergenti, ce n'erano così pochi che li ha sempre vinti lui. Assolutamente. Allora, mettiamo il pezzo di Ben Frost che si chiama Killshot, tratto da By the Truth, del 2009. L'etichetta non la so. Non me la ricordo. Thank you. sentivate parlare perché siamo un po' gonfi a quest'ora. Era Ben Frost con Killshot, suoni fantastici. Me l'ha portata Bad Girl qui alla radio, nello studio, in questo bellissimo studio con divani e tutto. Perché? Perché? Perché? Perché adesso ci farà ascoltare un inedito suo fatto quando? Che poi in realtà non è un inedito, da qualche parte ce n'è delle tracce, però sì, sono dei lavori fatti poco tempo fa, ce ne sono due pronte di song. Dovrebbe essere un lavoro che di quattro canzoni in tutto, che uscirà tra un po', appena Marco Valenti di Tote Swans comincerà a dirmi devi finire questo lavoro e lo devi far uscire, io lo farò uscire come ho fatto con Cosmi. Però dovrebbe essere una cosa molto ambient, quasi una cosa parallela alle produzioni effettive, perché ci sono poi altre cose che dovrò fare. Quanto sei misterioso. Che casino. E quindi è per questo che mi ha portato Ben Frost, perché ha sonorità simili, un po' ambientali, un po'. Ma come puoi definirle? Sì, no, ma nemmeno tantissimo, forse è un po' lo spirito che è simile. I suoni sono diversi. Poi quello che sentirete è una preproduzione fatta proprio così in un secondo in casa, con addirittura questa proprio con dei plugin e non ancora con i synth veri e propri, è una bozza. Però l'atmosfera e credo lo stomaco, gli stimoli sono un po' quelli all'incirca. Ok, il pezzo si chiama Deep 01. Non mi ricordo perché l'ho chiamato così, che è un software tipo... Ah, pensavo perché è profondo. Sì, per quello sì, il primo step di profondità, poi infatti gli altri si chiamavano 02, 03, 04. Ora lo mettiamo, però è l'ultimo pezzo, vi lasciamo con questo Deep 0.1 di Bad Girl, ricordandovi ancora che venerdì c'è il suo live al Centro per l'Arte Contemporanea Pecci a Prao. Alle 9, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, alle 9, quindi è prestissimo, e lì non fanno troppe menate, tipo no. Iniziamo quando c'è gente. No, inizia anche se non c'è nessuno. È dentro il museo, c'è la visita del museo compresa, quindi sì, gli orari sono rigidi. Tutto molto rigido. E vi salutiamo. Questo era 8 Hertz. Noi ci vediamo per un'altra puntata diversissima mercoledì prossimo intorno alle 22:30. Ciao da Noto Date e da lei, da lui, da me, grazie. Alla prossima.